A bordo campo di Dario Ricci. Andiamo in bicicletta oggi a bordo campo, con una guida d'eccezione, un grande campione, due volte campione del mondo, grande cacciatore di classiche e autore di pagine leggendarie del nostro ciclismo italiano e non solo. Benvenuto a bordo campo Paolo Bettini. Allora Paolo, partirei subito con te dall'attualità. Pochi giorni sono passati dal mondiale di Mendrisio, non è finito come ci aspettavamo. Sentiamo invece proprio come è andata a finire quella gara. Per la prima volta un australiano con la maglia iridata. Due volte sul podio del Tour, si è piazzato anche alla Freccia Vallone, ma quella di oggi davvero è una giornata indimenticabile. A 32 anni questo atleta australiano che ha sposato un'italiana si laurea campione del mondo, Cadel Evans. Beh Paolo, insomma, il quarto titolo mondiale per gli azzurri è sfumato, puntavamo molto su Damiano Cunego, ha vinto Cadel Evans. Come l'hai vista la gara nel tuo ruolo particolare di supporto al commissario tecnico Franco Ballerini? Ma io ho vissuto tutta la settimana con loro, non ero in macchina, non ero su una miraglia domenica, ma ho seguito tutte le fasi e posso dire che comunque i ragazzi hanno fatto quello che dovevano, nel senso che hanno espresso il proprio potenziale e bisogna anche riconoscere la bravura degli avversari, c'è niente da fare, a parte alcune piccole sfumature che come sempre in ogni gara ci possono essere, però i ragazzi si sono mossi bene, hanno preso ancora una volta così la gara in mano, si sono presi la responsabilità di fare la gara loro e alla fine Damiano era dove doveva essere, all'ultimo giro davanti con i migliori a giocarsela e invece lo hanno messo in difficoltà, bisogna accettare anche il risultato, credo che ci sia poco da rimpiangere, ecco. Si discute tra gli esperti e gli osservatori sulla capacità di leadership proprio di Cunego, chiamato per la prima volta a gestire un mondiale in prima persona. Tu che grande leader lo sei stato, da questo punto di vista hai qualche osservazione da fare? Ma osservazione, diciamo che il mondiale da parte di tutta la squadra e di Damiano è stato condotto bene, naturalmente trovarsi in un ruolo così importante per la prima volta sicuramente qualcosa da perfezionare c'è, questo è scontato, io ci ho messo qualche anno prima di trovare i miei equilibri anche all'interno di una nazionale che non è comunque la squadra di club, non ti trovi a dover gestire delle situazioni diverse da quelle abituali di una stagione, con la squadra di club ci corri per 12 mesi e la complicità che trovi lì devi essere bravo a rimetterla poi in soli 6 giorni per la gara più importante dell'anno. Invece dal tuo punto di vista, che mondiale è stato? Ti avevamo lasciato un anno fa a Varese a caccia del tris storico e anche con l'annuncio poi in qualche modo a sorpresa in quel momento della tua decisione di appendere la bici al chiodo, ti abbiamo ritrovato a Mendrisio con un ruolo chiave nella gestione della squadra azzurra, che effetto ti ha fatto? Ma a un anno di distanza sono ancora molto sereno della decisione che ho preso, non ho rimpianti, ho seguito da vicino e ho avuto così la fortuna di poter riassaporare un po' quello che è il clima della settimana mondiale stando vicino a loro, però non mi è mancata la gara. Con questo non voglio negare che comunque Mendrisio sarebbe stato ancora un percorso adatto alle mie caratteristiche, forse il più adatto di tutti quelli, un percorso selettivo dove se fossi arrivato in grande condizione avrei potuto giocare ancora una volta un ruolo da grande protagonista. Non è così perché sono giù dalla bici e me lo sono veramente goduto cercando anche durante la gara così di dare dei consigli per quello che c'era da fare. Sono molto sereno, va bene così. Beh, insomma, ti sei anche risparmiato una bella sfacchinata, altri 260 chilometri, insomma, che per una volta li faccia pure qualcun altro, insomma. Sì, infatti, ma poi non è il fatto dei 260 chilometri del mondiale, che magari si farebbero anche volentieri, e i sacrifici di un anno intero. Forse io ho detto basta perché, come sempre detto, per correre in bici è uno sport duro, di fatica e di grandi sacrifici, forse non accettavo più tutto questo insieme. Dopo 28 anni di ciclismo credo che sia anche normale, ecco. È un momento in cui nello sport mondiale assistiamo anche a grandi e clamorosi ritorni. Mi vengono in mente giusto gli ultimi due, le due tenniste belghe, Clijsters e Denen, che da numero uno si erano ritirate e poi sono tornate e stanno per tornare, insomma, ad altissimo livello. In quest'anno hai mai avuto tu questa tentazione? No, veramente no. Anzi, chi mi ha visto personalmente lo capisce meglio, perché sono ingrassato 7 kg, sicché me la sono goduta in maniera diversa, ecco, non mi mancano le gare, questo è il segnale più chiaro che era il momento di dire basta, ecco. Ti sei raccontato anche in un'autobiografia scritta con il collega Andrea Berton, Così ho pedalato in cima al mondo, edita dalla Red Edizioni. Ecco Paolo, quando hai capito che la voglia di andare in bicicletta, la voglia di conquistare vittorie classiche, titoli mondiali, si stava spegnendo e hai deciso di dire basta, di lasciare il mondo del ciclismo? Ma non è stato un episodio, è stato un insieme di cose. Io, se penso che l'anno scorso, 2008, nel mese di maggio, durante il Giro d'Italia, a una domanda precisa del manager della mia squadra, di Patrick Lefebvre, vuoi continuare a correre o no? Perché per la squadra è importante saperlo. Io dissi sì, voglio correre ancora un anno, e nella mia testa c'era il 2009 come ultimo anno. Da lì al 28 settembre dello scorso anno sono successe varie cose, hanno portato così a dire basta, a convincermi, e come appunto si racconta nel libro e come si spiega, la settimana del Mondiale di Varese è stata la settimana chiave di tutta questa mia carriera. Sono successe alcune cose e ripercorriamo il tutto, partendo proprio come inizia il libro, cioè dalla fine, partendo dall'ultimo atto, che è quello della mia decisione di dire basta, e da lì ripercorriamo tutta la mia carriera. Non ci lasciare troppo con la suspense, con la promessa che il libro lo leggiamo, però dacci qualche indizio, cosa in qualche modo t'ha spinto verso quella scelta? Ma alcuni episodi non chiari sul mio futuro, sul mio 2009, sponsor che dovevano fare squadra, una nuova squadra, ma sponsor che tardavano a dare l'ok per partire o meno, la necessità di dare delle risposte non solo a me stesso, ma anche alle persone che lavoravano con me, a direttori sportivi, massaggiatori e soprattutto compagni di squadra, che hanno sempre fatto una gran fatica per me, nel senso che mi hanno sempre aiutato e cercato di mettermi in condizioni migliori, e non gli sapevo dare un futuro perché tutto stava così, stava andando a rilento. E poi, se vuoi, un piccolo episodio, un disegno che mi ha dato mia figlia Veronica, con una scritta sotto: Babbo in toscano, rigorosamente in toscano, Babbo non andare più in bici. E lì è stato un po' un pensare, un ragionare, che ho detto va bene, dai, forse è arrivato il momento. Insomma, qualche pomeriggio in più a casa con Veronica fa piacere adesso. Ma sì, indubbiamente c'ho più tempo, mi rendo conto che mi sono tolto tante soddisfazioni, ho fatto gioire tanta gente, però ho tolto anche tanto spazio alla mia famiglia, è giusto che in qualche modo recuperi, ecco. Senti, Franco Ballerini, il CT Azzurro, tuo grande amico, ti ha voluto fortissimamente in questa nuova avventura azzurra a Mendrisio a fianco della squadra. Ti vedi in un futuro al posto di Ballerini o comunque nel ruolo di CT Azzurro? Ma come ho già detto più di una volta, credo che per un atleta arrivare a dirigere la propria nazionale, cioè la nazionale dello sport che ha sempre amato, sarebbe credo che insomma possa essere un sogno per chiunque. Io attualmente so e sono consapevole che c'è Franco sta facendo molto bene il suo lavoro, l'ha dimostrato comunque, a parte il risultato l'ha dimostrato anche quest'anno. Mi ha fatto piacere così la convocazione ad esserci per mettere a disposizione ancora una volta la mia esperienza così al servizio del gruppo. Non so, Franco c'è fino al 2012, io nel 2012 non so cosa farò e non so nemmeno se mi verrà chiesto. Mi dovrei trovare nelle condizioni, primo di una richiesta da parte della federazione, e secondo mi dovrei trovare nella condizione di poter dire sì. Da qui al 2012 veramente non so cosa andrò a fare e magari potrei già avere degli accordi con altre persone, con altre aziende che mi porterebbero magari anche a malincuore a dire no. Beh, insomma, teniamo il telefonino libero perché magari uno squillo da qui al 2012 potrebbe anche arrivare, Paolo. Vedremo. Paolo Bettini al centro, Paolo Bettini lo passa e ormai ai 100 metri dal traguardo vince praticamente per distacco. Vai Paolo, oro, Paolo Bettini, oro. Senti, tra i tanti meriti che mi sento di riconoscere al campione Bettini, oltre alle grandi vittorie, alle grandi emozioni che ci ha regalato, c'è anche quello di aver forse rivalutato nell'ambito del ciclismo mondiale l'oro olimpico, la partecipazione alle Olimpiadi. Tu hai veramente sognato la vittoria olimpica che poi è arrivata con quello splendido assolo ad Atene 2004 e hai sempre difeso con grande affetto, con grande partecipazione il valore della presenza del ciclismo alle Olimpiadi. Da dove nasce questo amore che in qualche modo comunque non è così diffuso in uno sport che ha i suoi momenti principali in altre grandi corse? Ma io, guarda, ho scoperto il ciclismo veramente da piccolo, perché prima di me correva mio fratello, 10 anni più grande, ho vissuto di ciclismo, lo sport in generale mi piace tutto. Pratico un po' di tutto, quando, soprattutto ora che ho tempo, mi piace correre a piedi, giocare a pallone, mi piace e riconosco che comunque l'Olimpiade è la massima espressione dello sport, cioè ci sono degli sport, molti sport che vivono solamente di medaglie olimpiche e di Olimpiadi, si basano su programmazioni quadriennali e tutto ruota intorno a una medaglia, di qualunque metallo viene, però ruota intorno alla medaglia. Il ciclismo ha così la fortuna di comunque ogni anno di avere grandi eventi, le grandi classiche, i grandi giri a tappe, il mondiale che si ripete ogni anno, diciamo è sempre uno sport di prim'ordine, però l'Olimpiadi ti proietta al di fuori del tuo ambiente, del tuo sport. Io ho avuto la possibilità di toccare con mano, di verificarlo, e posso dire che è la verità. Dopo rientrato da Atene la gente mi fermava per strada per farmi complimenti per la medaglia e molti mi chiedevano quale sport l'avessi vinta, cioè abbinavano la mia faccia ad una medaglia ma non si ricordavano che sport facessi, e questo credo che sia il segnale più grosso di quanto è importante un'Olimpiadi per un atleta. A bordo campo. Ancora insieme a bordo campo, nostro ospite Paolo Bettini, si parla dunque di ciclismo. Parlavamo qualche istante fa di Olimpiadi, Paolo, del tuo grande successo ad Atene 2004. A Pechino poteva arrivare un'altra vittoria, è invece arrivato una piccola grande delusione, neanche la medaglia, e soprattutto è arrivato quell'argento di Rebellin che poi è stato cancellato da un test antidoping, purtroppo per la nazionale azzurra e per lo stesso Rebellin positivo. Che sapore ti ha lasciato quell'Olimpiade sfumata sotto la grande muraglia e poi questa medaglia sfumata per l'ennesimo caso di doping che ha coinvolto un azzurro? Sicuramente tanto amaro e tanto dispiacere, perché soprattutto da un atleta di esperienza come Davide, guarda, preferisco ricordarlo in altre situazioni, in altre battaglie anche contro di me, nelle classiche, non in quell'episodio. Mi suona tutto strano, un ragazzo che ha basato la sua vita sul ciclismo e praticamente a fine carriera commettere un errore così a un'Olimpiadi è veramente grave. Personalmente cosa posso dire? Che abbiamo adottato una tattica di gara e mi ha portato all'esclusione dal potermi giocare la medaglia, quando invece credo tutti abbiano visto che avevo la grande possibilità di, non so se fare oro, ma sicuramente di essere là davanti a giocarmi la mia medaglia, e così a posteriori si può dire che forse era meglio, però cosa vuoi che dica? Ormai anche questo è un passaggio della mia storia, della mia carriera, della storia del ciclismo, purtroppo un passaggio negativo. Ti chiedo ancora, invece ha fatto un po' effetto, rimanendo sempre in tema di doping, vedere Valverde in gara a Mendrisio, no? Lo spagnolo coinvolto nella Operación Puerto e tuo grande rivale in molte sfide anche mondiali. Da questo punto di vista, è possibile che non si riesca ad avere una legislazione comune per tutto il mondo del ciclismo? E da un campione come te un suggerimento, quali sono i primi provvedimenti da prendere? Ma sì, suona tutto strano, suona molto strano che uno spagnolo venga giudicato da una federazione straniera, cioè è stato giudicato in Italia con delle prove e è stato squalificato sul territorio italiano. La cosa più strana è che a livello internazionale si sta facendo poco. Credo, un suggerimento, credo che per chiarezza, lasciando stare le categorie minori, dilettantistiche e via dicendo, credo che il professionismo soprattutto abbia la necessità a questo punto di essere centralizzato e di appartenere ad un'unica federazione, che è quella internazionale, con regole scritte e soprattutto solo quelle che tutti devono rispettare, e soprattutto nei casi ambigui come questo c'è solo un regolamento da prendere in considerazione. Sia che un corridore sia australiano o norvegese o italiano o americano, che siano regole chiare e uguali per tutti, altrimenti sarà sempre grande confusione. Si dice sempre che il ciclismo è più forte di questi episodi perché dalla sua parte ha l'amore della gente. Voi dell'ambiente, tu che sei un grande campione, pensi che questo rapporto, a forza di questa mancanza di chiarezza, di questi colpi alla fiducia dei tifosi, possa un giorno rompersi? Ma diciamo tutto è possibile, diciamo che il tifoso e il pubblico del ciclismo è tosto, con quello che è successo in questi ultimi 10-11 anni doveva essere già rotto questo legame tra il tifoso del ciclismo e appunto i corridori, questi gli eventi, e invece, come ha dimostrato anche il Mondiale di Mendrisio, la gente c'è, il pubblico c'è, vuole divertirsi guardando uno sport faticoso. Rimane il fatto che i ciclisti devono sicuramente portare più rispetto a tutti questi tifosi per non scocciarli troppo, perché comunque di eventi negativi ne abbiamo avuti fin troppo. È anche vero che gli eventi negativi del ciclismo hanno portato ad avere comunque più chiarezza in tutto l'ambiente. Questo campionato del mondo, ma c'è anche Zabel, c'è anche Eric Zabel, se lo giocano Bettini con Zabel e con Valverde, un terzetto di stelle per conquistare il campionato del mondo, e in testa Eric Zabel con vince Bettini. Prova ad uscire Bettini, Eric Zabel però è sempre di testa, una testa dentro dai due, vediamo un po' chi la spunta, vince Paolo Bettini, secondo Zabel, terzo Valverde, un finale straordinario. Facevi riferimento pochi minuti fa a tuo fratello Sauro, all'uomo che ti ha avvicinato al ciclismo. Nel 2006 arriva quello splendido trionfo a Salisburgo, pochi giorni dopo Sauro se ne va in un incidente stradale e poi tu trionfi a Lombardia in lacrime. Il campione ci ha commosso vincendo quella corsa in lacrime sul traguardo del Lombardia e dedicandola a Sauro. L'uomo Paolo Bettini, permettimi questa domanda, si è in qualche occasione rimproverato di aver corso quella gara? No, perché io non volevo correrla e a spingermi ad andare avanti sono stati i miei genitori e la moglie di mio fratello. Mi hanno detto una cosa molto semplice: nei giorni successivi alla tragedia, all'incidente, io volevo smettere di correre, non solo non correre in Lombardia, ma veramente mi sembrava tutto assurdo andare avanti e continuare. E invece mi hanno detto semplicemente: guarda, che se era successo a parti inverse, tuo fratello non poteva smettere di andare al lavoro, perché comunque è un lavoro, la vita va avanti e bisogna farsi forza. E io gli dissi semplicemente: va bene, allora se bisogna andare avanti e farsi forza, vi voglio tutti a Lombardia e vedremo. Io ho corso una gara assurda, perché per 25 ore sono stato in gruppo, non lo so, senza nemmeno stare a pensare troppo a cosa dovevo fare. Quando siamo arrivati nella parte finale ai piedi del Ghisallo, l'unica cosa che mi sono detto: va bene, andiamo su più forte possibile, almeno passa prima, e è uscito quello che è uscito, non lo so nemmeno io come. Appassionato di rally, con una grande passione anche per il volo con gli ultraleggeri, ora commentatore TV, hai collaborato anche col tuo sponsor tecnico Brico nella realizzazione di una linea di abbigliamento tecnico per i ciclisti, per gli appassionati di questo sport. Ma insomma, Paolo, spiegacelo un po', questo Bettini da grande cosa vuole fare? Questa è una bella domanda e si riallaccia al discorso del probabile CT o meno. Non lo so, ho ancora voglia di stare così adesso, cioè di godermi un attimo la vita e di fermarmi alle mie passioni, e poi valuterò quello che mi verrà proposto prossimamente, nei prossimi mesi o nei prossimi anni, vedremo. Ma adesso cerco di stare troppo tranquillo, no, perché insomma correre in macchina con i rally, volare diciamo, troppo tranquillo no, continuare a fare le cose che mi piacciono, questo sì. C'è un elemento comune che unisce queste passioni, tutto sommato anche diverse, perché la bici, credo che come la bici ti dà veramente delle scariche di adrenalina quando comunque rischi a buttarti giù dalle discese, a fare delle volate gomito a gomito, a buttarti nella mischia quando non sai nemmeno se ci passi con il manubrio, il fatto di continuare con attività, se vuoi, un po' estreme come il rally e il volo, ti danno comunque quella scossa che forse ne ho bisogno. Mi manca dalla bici, la trovo in queste attività. Così e va bene, per ora va bene, basta stare attenti comunque, poi per il resto va bene. Tu che ce l'hai l'occhio dell'osservatore del grande campione, ma un altro Bettini pedalando dalle parti di Cecina o quando inforchi ancora la bici per divertirti o nel gruppo stesso, lo hai visto già? Ma guarda, vicino a Cecina, a pochi chilometri da Cecina, 15 chilometri più o meno, c'è un altro gran corridore che è ancora giovane, dilettante, ha corso il mondiale a Mendrisio con gli under 23, Diego Ulissi, ha già vinto due mondiali nella categoria junior, è quasi pronto per il passaggio al professionismo, vedremo se saprà continuare su questa strada o se ha già espresso tutto il suo potenziale. In giro per il mondo, nel gruppo, non so, ci sono sicuramente tanti giovani promettenti, dire adesso se potranno fare 12 anni come ho fatto io, non lo so, bisognerà aspettare per capire. Beh, noi intanto ci godiamo i ricordi del Paolo Bettini ciclista e i commenti, le analisi e anche le battute del nuovo Paolo Bettini. Grazie di essere stato ospite a Bordo Campo, grazie Paolo, grazie Grillo. Grazie a voi, ciao. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.